730. Claret Cap, bibita inglese. Per questa bibita, che merita di essere descritta perché piacevole e di facile esecuzione, occorre vino rosso di ottima qualità. Può servire tanto il Bordeaux quanto il Chianti, il Sangiovese e simili. Vino decilitri 5. Acqua decilitri 5, limoni numero 5, zucchero bianco grammi 500. Fate bollire lo zucchero nell'acqua 5 minuti. Tolto dal fuoco, strizzate in questo siroppo i limoni e versateci il vino, poi passatelo da un pannolino. Rimettetelo al fuoco per farlo bollire adagio 25 minuti. E ghiaccio che sia, imbottigliatelo. Servitevene allungato con l'acqua e raffrescato col ghiaccio in estate. Dovendolo conservare a lungo, tenetelo in cantina.